Incontri di Gianfranco Fabi. Con la cavalcata delle Valchirie di Richard Wagner iniziamo il nostro incontro di questa sera. Buonasera a quanti ci ascoltano e buonasera ad Alberto Mazzucca. Buonasera. Ecco, prima di presentarvi Alberto Mazzucca, gli chiediamo perché la cavalcata delle Valchirie, questo ritmo impetuoso, imponente, questa cavalcata che sembra spazzare tutto. Perché mi sembra che si adatti molto bene all'irruenza che c'è stata negli anni Ottanta degli imprenditori italiani che scalavano società come se fossero brustolini. Era una finanza dirompente, una finanza sì, molto magari d'attacco, molto, diciamo. D'attacco, anche un po' irrazionale, anche un po'. Ecco, parliamo di finanza degli anni Ottanta perché Alberto Mazzucca è giornalista economico da lungo tempo e negli ultimi anni, ma anche prima, ha scritto insieme a fare giornalismo anche molti libri sull'economia italiana, sugli imprenditori italiani, soprattutto della ricostruzione, successiva alla ricostruzione. Ha parlato della Fiat, ha parlato della Pirelli, dell'Alfa, delle grandi imprese, e l'ultimo libro è dedicato a Gardini, il corsaro, che proprio negli anni Ottanta ha avuto i suoi fasti e infatti si ricordano in questi giorni, in quest'anno, il ventesimo della scomparsa, una scomparsa tragica di Rao Gardini. Quindi il corsaro è l'ultimo libro di Alberto Mazzucca. Perché questo titolo, il corsaro? Il corsaro perché a me piace vedere Rao Gardini proprio come un corsaro. Per due motivi, innanzitutto perché gli hanno attribuito dei soprannomi. Allora negli anni Ottanta i giornalisti con grande facilità attribuivano dei soprannomi agli imprenditori, per cui se Gian Daniele era l'avvocato, Carlo De Benedetti era l'ingegnere, e lui prima gli dettero del faraone, questo i suoi dipendenti, quindi dava già l'idea di come lui si muovesse all'interno dell'azienda. Il secondo era il contadino, perché lui piaceva la terra, secondo me è sbagliato chiamarlo contadino, perché lui semmai era un agricoltore molto che conosceva molto la terra. E il terzo è il corsaro, perché a un certo punto lui si buttava alla conquista di queste aziende e si è scontrato a un certo momento anche con l'allora presidente della Montedison, che era Mario Schimberni, che era soprannominato il pirata. Per cui mi piaceva questa differenza, il corsaro contro il pirata, insomma. È una rappresentazione forse efficace appunto di quella che era la realtà di quel periodo, in cui gli scontri avvenivano sul terreno della borsa, una borsa piccola come quella italiana, che è rimasta piccola e che questi scontri facevano molto rumore comunque. Troppo, secondo me. Negli anni Ottanta tutti quanti gli imprenditori avevano questa grande disponibilità di denaro per via dei fondi comuni di investimento nati nel 1984, finalmente anche in Italia. Io allora lavoravo al Sole 24 Ore e ricordo che inventai la pagina dedicata ai fondi di investimento, e quando venne fuori il primo fece questo titolo: è nato il capitalismo democratico. Poi era un'illusione. Un'illusione, un errore in sostanza. Ecco, un capitalismo abbastanza senza capitali. Queste scalate però avvenivano con i soldi degli altri, come poi è avvenuto dopo, facendo appunto un po' uno scambio di figurine molto spesso per conquistare queste imprese. È sempre stato così. Qui noi abbiamo avuto questi grandi capitalisti senza soldi che si appoggiavano a quella che era la prima banca d'affari italiana, che utilizzava i soldi pubblici per poterli aiutare, e utilizzava questa formula che oggi viene chiamata capitalismo di relazione, e cioè di contatti, di patti di sindacato. Il salotto buono, ecco. Ecco, questo libro è significativo, appunto, Gardini e Corsaro, anche perché non è solo la storia di Gardini, è anche la storia della dinastia Ferruzzi, di Serafino Ferruzzi, che è fondatore appunto dell'impero che a suo tempo era poi passato a Gardini, ma è anche la storia appunto di Mediobanca, e nello stesso titolo si parla da Ferruzzi a Gardini a Enrico Cuccia, quindi i grandi protagonisti di questo periodo. E Marco Vitale nella sua introduzione sottolinea la differenza proprio tra Ferruzzi e Gardini. Ferruzzi era il più ricco, uno che aveva conquistato grandi ricchezze attraverso le sue capacità, soprattutto di trader, di commercio nell'ambito delle materie prime, dei cereali, ma nessuno quasi lo conosceva in quel periodo. Era l'uomo più ricco, ma molto discreto, molto silenzioso, operava più a Chicago che a Milano. E invece Gardini si voleva far vedere, quindi c'è proprio in questo passaggio di consegne quasi un simbolo di una differenza proprio di strategie, di visione, di cultura economica. Sì, di cultura economica soprattutto. Bisogna tenere presente che Serafino Ferruzzi era questo personaggio sempre schivo, molto schivo. Io non riuscii mai a intervistarlo, ricordo che... Eppure siete conterranei, tutti e due romagnoli. Romagnoli tutti e due. Ma lui veniva il mercoledì a Milano per la borsa granaria, e ricordo che lui aveva un ufficetto di due stanze molto modeste, con una sola linea telefonica vicino a Piazza degli Affari. Al quarto piano di questo stabile, nello stesso pianerottolo, ci stava il custode dello stabile. Poi lui andava da Ravelli, che era il suo agente di cambio, faceva quel che doveva fare, dopodiché andava a mangiare un ristorante in Via Negri, che oggi non c'è più, ma che era al pian terreno di questo stabile, che era la sede del giornale, ed è tuttora la sede del giornale. Io allora lavoravo al giornale di Montanelli, scendevo sempre ogni mercoledì per cercare di intervistarlo, e lui mi spiegò perché non dava le interviste, perché mi disse se io devo parlare di imprenditori, sindacalisti e politici, devo dire molte brutte cose, non vedo perché devo parlare male degli altri. Se poi devo raccontare le mie cose agli altri, sarei un fesso. E quindi che intervista sarebbe quella in cui mi vengono messe in bocca delle frasi non mie? Ecco, quindi era una persona appunto molto schiva, molto, molto prudente, ma molto capace nei propri affari. Aveva creato un vero e proprio impero. Poi è morto tragicamente in un incidente aereo all'aeroporto di Forlì, e improvvisamente Gardini si è trovato a dover gestire questo impero. È cambiato in poco tempo il modo di gestione. Beh, è cambiato in poco tempo. Innanzitutto c'è stato un lungo periodo iniziale in cui bisognava mettere a posto questo grande gruppo. Secondo me neanche Serafino Ferruzzi riusciva più a capire che cosa aveva messo in piedi, perché era una cosa talmente grande, sconosciuto in Italia, nessuno sapeva niente. Quando lui morì lasciò 3.000 miliardi cash tra l'Italia e la Svizzera, 3.000 miliardi cash, 1979. Quindi c'è stato un primo periodo di riorganizzazione. Dopodiché, una volta capito qualcosa, il gruppo Ferruzzi doveva uscire fuori, perché ad un certo punto ha delle società quotate. C'erano gli analisti finanziari stranieri che lo tempestavano con Gardini di domande: vogliamo vedere i bilanci consolidati, e lui non li dava. Infatti questo è l'unico punto in comune tra Serafino Ferruzzi e Raul Gardini, due personaggi completamente diversi tra di loro, ma... Ci sono due punti in comune: questa della mancanza di trasparenza del mercato, cioè la incapacità di riconoscere i diritti delle minoranze. Molto più su Serafino era comprensibile, perché lui era il proprietario, quindi non aveva aziende quotate, meno comprensibile invece in Raul Gardini, ma comunque tutti gli imprenditori praticamente facevano così in quegli anni 80. E Gardini pensava di poter utilizzare il mercato come un piedistallo per le sue conquiste, per passare appunto dall'agroalimentare, che era il solido business dei Ferruzzi, alla chimica. È stato un grande sogno. È stato un grande sogno, gli è andato del visionario, però secondo me qui è il punto di forza anche di Gardini, perché lui è stato innovatore, molto innovatore. Quando lui ai primi anni 80 parlava di unire l'agroindustria alla chimica, tutti lo prendevano in giro. C'è questo incontro in Mediobanca tra Enrico Cuccia, Mario Schimberni, Renato Ugo, che allora era il capo della ricerca della Montedison, e Gardini, in cui Gardini viene e dice: io metto i miei soldi in Montedison. Allora ha preso il 2% del capitale Montedison, voi mi dovete aiutare nella chimica verde, nella biochimica. E Schimberni, che sapeva che non c'erano possibilità in quel momento, perché e questa ricerca era troppo costosa, disse va bene, facciamo finta che possiamo fare qualche cosa perché non abbiamo bisogno dei soldi del gruppo Ferruzzi. In realtà però con questa visione oggi abbiamo una società, la Novamont, che è diretta da questa signora Katia Bastioli, che è la donna, che è la ricercatrice che Gardini volle allora a capo della ricerca. Oggi è leader mondiale nella bioplastica. Ecco, quindi anche la visione poi ha avuto degli effetti concreti, non era solo un pirata rampante, un pirata finanziario, aveva anche delle basi logiche quantomeno intuitive, perché lui è stato un grande, aveva grande intuizione, essendo un grande giocatore di poker, quindi lui intuiva molto bene dove poteva anche andare. Questo fa parte del personaggio. Già allora c'era comunque anche l'influenza di Enrico Cuccia come grande maestro, grande orchestratore. Incontri. Ancora con la cavalcata delle Valchirie di Wagner, riprendiamo il nostro incontro con Alberto Mazzucca, giornalista, scrittore, e qui con noi anche perché ha scritto e ha mandato in stampa negli ultimi mesi un libro su Gardini, a 20 anni dalla tragica scomparsa di quello che è stato uno dei grandi esponenti della finanza italiana, e la cavalcata delle Valchirie, ci spiegava Mazzucca, ricorda un po' quegli anni in cui tutto sembrava possibile, tutto sembrava vicino, quasi da poter conquistare, in un sistema finanziario in cui una scalata si aggiungeva all'altro, e in un disegno che forse non c'era, ma che sembrava che ci fosse qualcuno dietro le quinte che comunque tirasse i fili di questo disegno. E questo qualcuno viene anche nello stesso libro di Alberto Mazzucca, indicato con Enrico Cuccia. Ne abbiamo parlato alla fine dell'incontro precedente. Ecco, riprendiamo da Enrico Cuccia. È stato veramente il grande maestro, il grande vecchio della finanza italiana, colui per il quale non si muoveva foglia se lui non voleva? Gian Agnelli disse: ciò che Cuccia vuole, Dio vuole. Disse Cuccia è il collo di bottiglia dell'economia italiana. Praticamente lui era il vero numero uno dell'economia italiana, il più potente, perché tutti quanti questi grandi capitalisti dovevano avvicinarsi a lui perché avevano bisogno del suo intervento, ma poi rimanevano sotto la sua custodia, chiamiamola così, e lui faceva fare quello che poi a lui interessava molto di più, non sempre il bene di tutte le aziende, ma in questo modo ha salvato queste grandi imprese. Io dico sempre, allora già ero un po' critico nei confronti di Cuccia, perché dicevo tutti i soldi dati a queste grandi, per mantenere in piedi queste grandi aziende, cosa avrebbero potuto fare se fossero stati indirizzati verso le medie imprese che avrebbero potuto crescere. Il fatto è che poi questi soldi furono buttati, io dico buttati perché ha mantenuto sì in piedi delle aziende, è vero, ma a scapito di che cosa? Il gruppo Ligresti ha già allora, alla fine degli anni Ottanta, era in difficoltà, aveva 1.000 miliardi di debito, è stato salvato allora perché appoggiato da Craxi e da Cuccia, ed è arrivato fino ai nostri giorni in sostanza. Quindi Cuccia era questo dominus. Ed era uno che a tutti quanti gli imprenditori erano abituati ad assecondare. L'errore di Gardini fu proprio quello di non assecondarlo. Lui si mise contro l'establishment economico di allora. Fu l'unico che, a proposito di una questione di nomine alla Fondiaria, questa compagnia assicurativa fiorentina, sbatté il telefono in faccia a Cuccia. E Cuccia, da buon siciliano, se la legò al dito. Tant'è vero che dopo, quando Gardini viene estromesso in questa storia, in questa dynasty familiare, che sembra proprio la storia di Dallas che abbiamo visto in televisione trasferita qua in Italia, quando viene estromesso e il gruppo rimane in mano a questo personaggio che ha sposato una delle figlie Ferruzzi, il gruppo va in crisi, e che cosa fa questa persona, che poi è Carlo Sama? Si rivolge a Cuccia, e Cuccia si vendica e praticamente spezzetta questo grande gruppo. Tenga presente che c'è Ravelli che disse: Gardini non ha capito una cosa, e cioè che Cuccia lavora sempre per il suo miglior cliente. Il suo miglior cliente è Gian Agnelli. Certo, c'è un grande legame appunto tra questo establishment finanziario ed era difficilissimo, se non impossibile, entrare, soprattutto entrare poi in contrasto con questo establishment. Resta il fatto che l'Italia appunto ha poche grandi imprese, quelle poche sono state un po' preservate da questo sistema finanziario, forse appunto guardando un po' nel suo complesso il sistema economico italiano, c'è anche il fatto che le imprese non crescono anche perché mancano i capitali sono andati soprattutto alle grandi imprese, soprattutto partendo magari in questa visione dagli anni 80 ad oggi. Fortunatamente si è formato quel cosiddetto quarto capitalismo, cioè formato da queste imprese medie che sono diventate delle mini multinazionali che non hanno avuto bisogno di ricorrere, di bussare alla porta romana, la frase che disse Mario Monti negli anni 70, allora era rettore della Bocconi, disse, inventò questa frase, la via romana allo sviluppo, cioè una parte degli imprenditori doveva bussare a Roma per, bussare, per chiedere, per ottenere finanziamenti. Certo, un capitalismo assistito. In pratica. C'è stata una parte che invece è riuscita a rimanere in sella e a fare anche delle buone cose. Io ho scritto un paio di libri su di loro, uno sul Made in Italy, un altro sul che raccoglie un gruppo di imprenditori veramente innovativi, un altro fatto insieme con la collaborazione degli industriali di Torino, cioè 20 casi di imprese eccellenti nel Piemonte. E cioè ci sono lo stesso presidente della Confindustria Squinzi, certo. La Mapei è una mini multinazionale molto forte, cioè ci sono questo quarto capitalismo esiste ed è quello che regge questo paese. Ecco, che però è un po' come Serafino Ferruzzi, fa parlare poco di sé, forse avremo un po' più bisogno che questi capitalisti che hanno delle storie positive facciano parlare di sé, diano il buon esempio, diano una testimonianza di fiducia in questo paese. Sì, è difficile darla in questo momento perché io penso che l'Italia sia ingessata, penso che la classe dirigente, non dico di adesso, ma quella precedente, classe dirigente, quindi includo tutti, politici, sindacati, anche imprenditori, ha fallito. Anche giornalisti. La classe dirigente ha fallito, nel senso che ha perso tutte le opportunità che questo paese aveva e oggi è difficile ritirarle fuori. Quando un paese è ingessato, o lo abbatti completamente, si ricomincia da capo. Beh, direi che è un'ipotesi, forse dobbiamo scartare. Molto difficile. Ecco, la rivoluzione forse è bene predicarla, ma è difficile farla. Bisogna forse cominciare a cambiare anche gli atteggiamenti, anche guardare con un po' di speranza, con un po' di sogno, in fondo, come aveva Adriano Olivetti, se ne è parlato nelle scorse settimane, come avevano un po' gli uomini della ricostruzione, forse come aveva anche Serafino Ferruzzi, che sognava in proprio, però faceva delle cose guardando alla concretezza dei problemi. Io dico affidarsi alla responsabilità di ognuno. Ognuno nel proprio campo può fare questa piccola rivoluzione. Ecco, guardando alla realtà attuale, Alberto Mazzucca, quale imprenditore paragonerebbe nel bene, e magari quale imprenditore nel male a Gardini, in questa logica? Ovviamente i tempi sono diversi, i tempi sono cambiati, non c'è più questa finanza speculativa, anche perché la finanza speculativa l'abbiamo pagata anche molto forte con la crisi del 2009. Ecco, ci sarebbe spazio per un nuovo Gardini in questa fase, in questo momento, in questa Italia? In questo momento penso di no, perché visto che è un paese che i soldi non ci sono, anche un imprenditore ha bisogno di soldi, li deve andare a cercare all'estero, quindi molto probabilmente potrebbe fare qualcosa di più all'estero. Già allora Gardini voleva andarsene via dall'Italia per sfuggire dal legame di questi politici, eccetera, voleva andare a vivere in Francia, lui e portare tutta l'azienda, il gruppo Ferruzzi, in Francia. Penso che oggi non sia così facile. C'è questo quarto capitalismo che resiste, che esporta, riesce a vendere, eccetera, ma praticamente è solamente il settore della moda quello dove vengono fuori gli imprenditori con un nome. Gli altri lavorano ma non hanno questo grande nome, forse è quello che regge ancora questo paese. Ecco, però anche qui nel campo della moda quello che si vede è che se c'è qualche scalata viene dall'estero, sono gli stranieri che comprano le aziende italiane. Questo, vabbè, può essere un dato positivo perché hanno fiducia nell'Italia, però resta il fatto che rischiamo progressivamente di perdere anche un po' di capacità di programmazione, di visione comune un po' dei problemi. Sì, riusciamo a perdere, ma secondo me si può sempre reagire. Non è detto che se vengono a comprare in Italia, benissimo, noi possiamo andare a comprare all'estero. Il fatto è che poi all'estero si compra poco. E cioè questi imprenditori, qui stiamo parlando di imprenditori, e molti sono anche seduti. Anche loro avrebbero bisogno di avere questa carica, di questa carica che forse aveva Gardini allora, e lui la dirottò verso cose non positive. Ecco, tra le tante storie di imprese, Berto Mazzucca ha trovato anche il tempo di scrivere un libro qualche anno fa che si intitola Angeli tra noi. Sì, Angeli tra noi è stato il momento in cui sono ritornato a credere in Dio, e quindi mi piaceva andare a scoprire in giro per l'Italia tutte queste persone, molte sconosciute, che invece lavorano concretamente e fanno delle cose positive. Sono quelle che, insieme agli imprenditori positivi, certo, sono quelle che reggono questo paese. Quelle che non fanno notizia, purtroppo. Quelle che non fanno notizia. Però ecco, ci sarebbe bisogno, ci sono comunque queste figure. Possiamo, concludendo, guardare a questa Italia in cui c'è appunto una parte forse un po' sotterranea, non dico di economia sommersa, un po' che non fa notizia, un po' che non fa rumore, che comunque lavora, che comunque tutti i giorni ha qualcosa da fare, non tanto per sé quanto per gli altri. Io ci credo. Io so che esiste. Quando posso scrivo anche su di loro, ma sono quelle che mi lasciano essere un po' ottimista nel mio pessimismo in questo momento di questa Italia che vedo in declino, ma mi lasciano uno spazio di ottimismo. A quale libro sta lavorando, pensa di poter lavorare nei prossimi mesi? Adesso sto facendo un libro che è proprio fuori dalla mia storia, diciamo, ed è un libro su Mussolini e Nenni, perché sono entrambi romagnoli, uno di Predappio e l'altro di Faenza. Uno era socialista e l'altro repubblicano, e poi è diventato socialista e l'altro... Ecco, questi amici nemici. Ho capito. Beh, quindi buon lavoro attorno a questo tema, e grazie ad Alberto Mazzucca per essere stato con noi questa sera, così come ringrazio Anita Panizza in redazione e Fabio Cantadori in regia. Vi ricordo che questo programma può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie ancora, buonasera.